Abbiamo in collegamento telefonico qui con noi l'istrionico artista dall'umorismo politicamente scorretto, Immanuel Casto. Buon pomeriggio, Immanuel, come stai? Molto bene, buonasera, grazie per questa presentazione istituzionale veramente pomposa, grazie mille. È un piacere per me e per noi ascoltarti e averti in collegamento. Grazie mille. Allora, io ho letto dalla tua biografia che nasci in provincia di Bergamo e ti trasferisci poi a Bologna. Ho fatto precisamente la stessa cosa anche io e quindi ti chiedo cosa ti ha spinto a venire a vivere qui. Che meraviglia, anche tu però sento che sei redenta, avrei fatto dizione perché non si sente molto la tua provenienza. Ma in realtà sono anni che sono bergamasca ma cerco di non farlo sentire. In incognito, insomma. In incognito, sì. Comunque, sì, mi sono trasferito ormai parecchi anni fa, 16 anni fa, quindi tra qualche anno potrò dire che ho passato qui in metà della mia vita, tutto, come dovrei aspettare altri anni per poterlo dire. Comunque è una città di cui mi sono innamorato e sinceramente, dovendo restare in Italia, non vorrei scegliere un'altra città. La scusa è stata l'università, però ripeto, è stata una scusa, perché la fine Milano offriva poi le stesse cose. Il compromesso tra dimensione e offerta è notevole a livello di logistica. Tra la stazione e l'aeroporto, vicinante all'aeroporto, penso che sia una condizione veramente di comodità unica in Italia, quindi non ci penso neanche ad andarmene. Ti capisco proprio bene, io ci vivo solo da 2 anni, però penso esattamente alle stesse cose. Ecco. Allora, il tuo L'età del consenso tour è partito il 13 novembre dall'Alcatraz di Milano, è il tuo ritorno live e sarai accompagnato da band e dal tuo corpo di ballo. Ti chiedo se sei innanzitutto carico per il concerto di questo sabato, che ricordiamo essere qui a Bologna in zona Roveri, e cosa ci dobbiamo aspettare da questo tuo scoppiettante live? Sono veramente molto contento, era da un po' che non tornavo live e è da un po' che non suono più. Quindi sono contentissimo, peraltro in un club come quello di Zona Rovere, presso qui non ho mai suonato ma è molto bello, quindi sono davvero contento e è uno spettacolo veramente ricco, alla fine sì, lo definisco uno spettacolo, sapete, sia un concerto, perché comunque ha un taglio cabarettistico, dove anche tra un pezzo e l'altro gli interventi sono studiati, c'è una regia e poi quello che fa la differenza alla fine, la soddisfazione di arrivare alla fine e è mista al dispiacere nel vedere le persone deluse per il fatto che sia finito, però questo significa che il ritmo è stato molto molto alto. Assolutamente. La prima volta che l'ho fatto, sono partito in realtà, la data ufficiale, la prima è stata appunto all'Alcatraz, un sold out veramente molto bello, ma la data zero, ormai sono tanti anni che la faccio in Emilia, comunque a Modena, e lì ho detto, accidente, io morirò alla fine del tour, perché è veramente molto faticoso lo spettacolo. Invece no, non sono morto e sono molto meno male, meno male. Non vedo l'ora di suonare sabato. Rimanendo in tema, hai un aneddoto da raccontare sulla cosa più strana che ti ha detto un fan o che ha fatto un fan per te? Accidenti, allora devo pensarci un attimo, ti spiego perché. Di aneddoti ne avrei tantissimi, però molti, stavo dicendo, sono di natura sessuale, però sembra che abbia fatto. No, sono cose che mi vengono riportate, diciamo, commenti bizzarri. Allora, vediamo, devo sceglierne uno un pochino più radiofonico. Ok, ma non porti limiti. Allora, no, comunque gli aneddoti sarebbero tanti. Allora, guarda, ti dico una cosa già che è molto carina. Ok. Una delle cose che proprio meno mi aspetterei è che nei concerti a volte vengono tipo genitori con i figli. Magari sono un padre con il figlio adolescente. Per me è una cosa bellissima, se poi ho occasione di fare un meet and greet, magari con la madre che mi presenta il figlio, cioè, guarda, ci tenevo tantissimo a portare mio figlio. È proprio bello, perché sai, comunque c'è un margine di pregiudizio nei confronti di certe tematiche, che certo, siano controverse, quando in realtà io penso di dare un messaggio molto positivo, che fondamentalmente è di celebrazione della diversità, di accettazione e di vivere il sesso anche in maniera serena. E vedere che appunto un genitore porti orgoglioso e vedere proprio la felicità anche nel figlio è stata una cosa veramente molto commovente, che spesso succede. Beh, è una cosa molto bella che penso ti faccia capire che stai facendo il tuo lavoro bene. In effetti è così, devo dire che quella è la parte più bella, anche con i messaggi che ricevo, che vanno oltre, ho la presunzione di dire, e se è un'illusione lasciatela, che ci sia veramente un'affezione non comune, dove magari ci sono artisti mainstream che fanno benissimo il loro lavoro, però magari non c'è quel tipo di coinvolgimento, proprio emotivo, quasi di gratitudine nei confronti di un percorso fatto, nel dire cose che magari loro vorrebbero dire ma non possono, e questo tipo di riscontro mi fa tanto piacere vederlo. Ed è molto bello anche sentirlo. Uh-huh. Ti chiedo, sempre relativo al palco, prima di salirci, hai dei riti scaramantici che senza di quelli non ti presenteresti sopra? No, allora, non sono una persona scaramantica, quindi mi presenterai lo stesso. Ok. Cioè, il classico merda, merda, merda, come vuole la tradizione. Certo. Quindi in cerchio, coinvolgo anche i tecnici, sono un attimo. Però è giusto, anche sempre le quinte è importante, anzi forse sono quelli che mi potrebbero fare il danno maggiore. Questo insomma con questo momento di aggregazione. Poi a me piace quell'ansia positiva che ho detto prima, con cui proprio sono rimasto spaccato sul divano fino ai 30 secondi prima di uscire sui palchi. Non sono state belle perché significa che per qualche motivo sentivo un'energia negativa, mentre no, quell'ansia che sale quel 30 minuti prima è proprio bella, e poi quella è quella che tiene su l'emotività durante lo spettacolo. Beh, l'adrenalina. In pratica sì. Lo scorso 14 settembre è uscita la tua raccolta L'età del consenso, con all'interno 19 brani, inclusi due inediti, Piromane e Goodbye Milano. Hai dichiarato che è una raccolta che celebra il tuo percorso, ci vuoi raccontare brevemente? Certo, l'età del consenso, 14 anni. Ci sono vari significati, perché a parte che l'età del consenso è in effetti 14 anni, ma allora ha un significato particolare, perché quando ho iniziato a fare quello che ho fatto, l'ho fatto per divertimento, e questo aspetto genuino ovviamente si vede, insomma, che io mi sono divertito, mi diverto a fare quello che faccio, anche perché altrimenti la gente non si divertirebbe a sua volta. Però non c'era una vera intenzionalità, non sapevo, cioè sapevo cosa stavo facendo, ma non sapevo perché lo stavo facendo. Mentre adesso questa lucidità ce l'ho, e alla fine si parla di consenso quando c'è consapevolezza, no? E, certo. E ora so quello che voglio fare, quindi questa raccolta mi è servita anche un po' per fare il punto in previsione di quello che sarà poi il mio percorso futuro, che non sarà mai un rinnegare quanto fatto, ma un costruire sopra quello che è stato fatto. Credo che anche il pubblico che mi segue sia cresciuto con me, tutto è partito da quella risata gogliardica, che anche sana ci mancherebbe, però siamo cresciuti con un tipo di comunicazione più significativa, più densa, ed è una cosa che dico io, e anche in questo posso parlare insomma di età del senso. Diciamo che sei un artista che usa principalmente la provocazione per essere ascoltato, e diciamo che già dai titoli delle tue canzoni, che troviamo appunto nella raccolta, lo dimostrano, come ad esempio Tropicanal, Da Grande Sarai Frocio, Escort 25, Bondage e tante altre. Un po' forse lo hai già detto, ma il tuo intento quindi è divertire, è far conoscere, è sdoganare forse? Tutte queste cose che hai detto una cosa molto giusta, usi la provocazione per farti ascoltare, è vero, ma poi la provocazione non è un contenuto, è un modo per portare le persone al tavolo, ma poi ci devi parlare senza provocazioni, anzi quello è il modo migliore proprio per allontanare chi ascolta. Infatti chi mi segue anche al di là dell'aspetto musicale rimane magari anche colpito dalla differenza di registro, che quando mi esprimo nell'arte lì mi do tutta la libertà possibile della finzione, quindi certo sdoganare, celebrare anche l'eccesso, perché è sano nel momento in cui avviene proprio in un contesto di finzione come quello artistico. Ma se poi mi ritrovo a fare divulgazione su certi temi, mi ritrovo, non lo so, a tenere una conferenza, il registro sarà completamente diverso, e lì proprio è finalizzato a portare magari anche proprio l'avversario a vedere le cose dalla mia prospettiva. E se la provocazione può essere servita per attirare l'attenzione, sarebbe poi un fallimento in questo intento. Certo. E lì serve veramente un dialogo in cui fondamentalmente, sai, le domande da fare sono sempre due: dimmi di che cosa hai paura e dimmi di che cosa hai bisogno. Alla fine poi ci si rende conto che le paure sono infondate, che non sta a me soddisfare i bisogni dell'altra persona. Scusami, magari adesso può sembrare che sia andato in tema, perché stiamo parlando di canzoni come si chiama, che poi intitolate Tropicanal, ma invece no, l'aspetto artistico diventa poi magari specchio di questo tipo di dinamiche di cui parlo tutti i giorni. E l'ho lasciata per ultima, anche se in realtà ti ascolterei raccontare dei tuoi brani per ore, perché è molto interessante e credo sia un lavoro molto valido e che serve in questo periodo comunque storico. Un artista come te, che magari facendo ridere, però ci fai ragionare molto, ecco. Questo è un po' il mio parere personale. L'ho lasciata per ultima perché è sicuramente una domanda che ti hanno fatto un sacco di volte, però desta curiosità. Come mai hai proprio scelto di chiamarti Immanuel Casto? Alcuni elementi sono totalmente casuali. Okay. Il nome, l'anagrafe sarebbe Manuel Cuni, e quindi Manuel non è così diverso. Ero bravo in filosofia, quindi l'insegnante di filosofia, che non era bravo in filosofia, aveva iniziato a prendermi in giro perché le facevo domande, ribattezzandomi in Immanuel, che in effetti mi piaceva, un po' tedescheggiante, riempie meglio la bocca. Casto in realtà è casuale, perché all'inizio il mio personaggio era un po' un troll, e quindi mi ero autobattezzato Casto Divo, anche in contrasto insomma con le tematiche, e quando avevo registrato il dominio all'inizio era Casto Immanuel, avevo fatto una crasi, quindi è passato per il mio cognome, a un certo punto me lo sono tenuto. Vabbè, hai fatto bene. Rende bene l'idea. Allora, io prima di salutarci ti chiedo di suggerirci una tua canzone che mandiamo in onda tra pochissimo. Posso scegliere? Proprio qualsiasi mio pezzo? Qualsiasi tuo pezzo. Allora posso anche sorprenderti, ti proporrei di mandare in onda Da quando sono morto. Ok. Va bene. Perfetto. Allora io ti ringrazio, è stata una piacevolissima chiacchierata. Anche ricordiamo l'appuntamento di sabato 1° dicembre in zona Roveri. Fantastico, non vedo l'ora. Ok, ci vediamo lì allora. Okay, grazie. Grazie a te, un saluto. Okay.